di più. È una storia che non mi va giù. C'è una crepa che va, che mai si chiuderà. Ora su ora ancora di più. È una storia che non mi va giù. C'è una crepa che va, ti ucciderà. Aria, spara!